Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di mercato, di investimenti, di finanza. Parliamo di tutto quello che può far crescere l'Italia e ne lo facciamo con Maurizio Guandarini. Buonasera Guandarini. Buonasera a te e ai tuoi ascoltatori. Maurizio Guandarini è tra i più qualificati analisti indipendenti del sistema finanziario globale, docente, organizzatore di eventi internazionali per la Fondazione Istituto, è giornalista, scrive per quotidiani, collabora a programmi televisivi, ha fondato insieme a Victor Hume una società che ha dato vita al quotidiano La Voce di Indro Montanelli e con Victor Hukmar ha curato questo libro Gulf and Med, il mercato, gli investimenti e la finanza islamica. Ab Italia, business per la crescita. Il sovrattitolo possiamo dire è Expo Milano 2015, Dubai 2020. Dubai 2020 è quando si svolgerà la prossima esposizione universale. Allora, perché questo libro, Maurizio Guandarini? Ma devo dire che è dettato anche dalla cronaca, perché è notizia dell'altro giorno che i fondi degli Emirati Qatarini hanno acquistato gli skyline, i grattacieli di Milano, e questo ci fa dire come in verità questo fenomeno sia presente e quali e quante occasioni ci possono essere per i nostri imprenditori e soprattutto anche per le piccole e medie imprese. Ecco, si è parlato molto di Islam, si parla molto di Islam soprattutto per le vicende dell'ISIS, per la distruzione dei monumenti, per le brutalità che sono avvenute, ma c'è anche un'altra realtà che non è solo petrolio, peraltro, e tra l'altro proprio uno dei vostri capitoli è il petrolio non è tutto. Dietro a questi elementi c'è una realtà in crescita, una realtà che si sta modernizzando e su cui l'Italia può contare per i prossimi anni. Beh, intanto una piccola così premessa: se noi analizziamo quello che il fallimento delle primavere arabe hanno testimoniato l'assenza di idee, di programmi da parte dell'Occidente e dell'Europa, il che vuol dire che poi l'integralismo terroristico, religioso ha fatto leva su quelle povertà di quei paesi e poi vediamo in questi giorni quello che succede. Quindi la finanza islamica è un'opportunità, cioè un'opportunità per tutti, un'opportunità per gli imprenditori, è un po' un'opportunità per gli investitori, anche tenendo conto che in quei paesi stanno cambiando e stanno diversificando i loro investimenti, il petrolio non è più tutto, quindi naturalmente pensano di entrare nelle nostre aziende, di collaborare con le nostre aziende. Penso solo al mercato halal, cioè il mercato che si rifà ai dettami, agli insegnamenti del Corano, della Sharia islamica. Il mercato halal è un mercato sterminato, un mercato che in particolare nel settore del food, dei prodotti alimentari, che prende molto le nostre piccole e medie imprese, quelle artigianali, perché noi siamo capaci di fare prodotti che sono vicini alle esigenze del consumatore musulmano. Ecco, la finanza islamica viene vista come una grande opportunità, ma anche come qualcosa di difficile da approcciare per le sue regole, per le sue procedure, per i suoi limiti, anche per certe consuetudini che rendono difficile un rapporto con questa realtà. Voi nel vostro libro, appunto, nei vari capitoli di questo libro, illustrate anche con i fatti, con la prova dei fatti, che in fondo rispettando le diversità si possono anche fare molti affari insieme. Ma insomma, tu mi insegni, e siamo su una radio che è Radio 24, insomma, lo sappiamo bene, se gli affari non li fai tu, c'è uno vicino che li fa prima di te, quindi senza problemi. Quindi da questo punto di vista io sono convinto che il primo approccio, il primo passo è quello di renderci conto di quello che sta avvenendo in Francia, in Gran Bretagna. Sono già a passi veloci, io penso che la Gran Bretagna, le intenzioni del primo ministro Cameron è quello di fare della Gran Bretagna il primo hub mondiale per la finanza islamica. Ecco, mi sembra che sul territorio italiano, senza mi sembra, è così, da parte nostra c'è una classe dirigente anche politica un po' troppo locale, insomma, certo. Occorre fare e prendere dei provvedimenti che naturalmente favoriscono l'ingresso, ad esempio, dei titoli sul mercato italiano, quindi occorrono delle leggi da parte dello Stato, delle leggi dalla parte della Banca d'Italia, quindi insomma dei passi occorre farne, siamo ancora fermi da troppi anni. Ecco, sorprende appunto, leggendo questo libro c'è un intervento per esempio dell'ambasciatore d'Italia in Arabia Saudita Mario Boffo, che dice che l'Italia è apprezzata, è vista molto bene, ha tanto gradimento da parte dei paesi arabi, però a questo apprezzamento, dice l'ambasciatore, corrisponde tuttavia la percezione di una nostra insufficiente presenza su questo mercato, unita a una generale difficoltà a creare rapporti duraturi con la realtà economica del paese. Dal punto di vista saudita, ancora l'ambasciatore, rapporti più strutturati e duraturi aiuterebbero molte aziende medio-piccole. L'ampia disponibilità di capitali nel regno, anche grazie ai sussidi pubblici, offrirebbe infatti l'opportunità di rivitalizzare tante eccellenze italiane penalizzate dalla crisi. Ecco, se lo dice l'ambasciatore, dobbiamo crederci, è il primo interprete, forse si sente un po' disarmato di essere qualcuno che porta il vessillo ma non ha alle sue spalle un esercito che si muove. Se lo dice l'ambasciatore, è la legge della verità, quindi da questo punto di vista non abbiamo alcuna controreplica da fare, però quello che leggevi tu, quello che ha scritto l'ambasciatore, è il fenomeno, la febbre del nostro Made in Italy. Certo. Stiamo raccontando da decenni ormai, no? Prima era il problema di fare sistema. Oggi il punto è che il nostro Made in Italy non riesce a strutturarsi come sistema sui mercati internazionali, il che vuol dire che in certi casi addirittura il nostro Made in Italy, che è di grande qualità, non è concorrenziale ad esempio con quello francese. Certo. Al vino in Cina, il vino in Cina... Ecco, in Cina, non nei paesi arabi, perché lì è un po' più difficile. Sì, però in vino è molto più venduto, è molto più concorrenziale, e l'Italia, che fa ottimo vino, non riesce a penetrare allo stesso livello, insomma... E come vedi, ci riagganciamo a quello che dicevamo prima, cioè le nostre classi dirigenti, quello che è stato fatto e quello che rimane ancora da fare. L'importante è che non sia una liturgia ricordarcelo sempre. Certo. Di continuo, ecco. No, ma questo libro è molto concreto, Gulf and Med, lo ricordo, e questo sovrattitolo, Expo Milano 2015, Dubai 2020, possiamo veramente, Maurizio Guandalini, pensare che l'Expo 2015 sia una grande occasione per smuovere le cose, per creare dei nuovi contatti, per avvicinare delle realtà che hanno bisogno dell'Italia, così come l'Italia ha bisogno di loro? Ma io voglio rimanere ottimista. Voglio rimanere ottimista e mi auguro che sia effettivamente così. Ci sono enormi potenzialità. Sappiamo che oggi non è necessaria la vetrina di Expo per fare sistema, per essere sui mercati, per scambiarsi idee, per collaborazioni, però visto che c'è occorre sfruttarlo al massimo, soprattutto di fronte al prossimo Expo, che è Dubai 2020, dove a quel punto il tema degli investimenti nell'area Gulf Med, quindi tutto il tema della finanza islamica, saranno molto maturi, e a quel punto là chi ha fatto di più sarà vincente sui mercati, chi invece sarà rimasto indietro non avrà alcuna possibilità. Ed è così su tutti i mercati internazionali, se tu analizzi anche quando sono caduti i mercati dei paesi dell'est, è stata così, quindi i processi storici si ripetono in economia senza problemi. Ecco, però bisogna anche aprire un po' gli occhi, guardare alla realtà. Ecco, interessante in questo libro anche il fatto che si mettono in luce dei paesi di cui si parla raramente, per esempio il Marocco, dice uno degli articoli, è un frutto maturo, qualcuno lo coglierà. Ecco, il Marocco è un paese sicuramente che non ha i problemi di conflitti che ci sono in altri paesi, e che è un paese moderno con cui dialogare è probabilmente più facile, forse è un po' dimenticato, è un po' troppo lontano dal Mediterraneo. Il Marocco, come d'altronde anche tutti i paesi di questa fascia mediterranea, ora attraversati anche da conflitti, ma penso alla Tunisia che si è comunque rimessa in piedi, che sta marciando bene, sono paesi dove la presenza italiana è discretamente consolidata, come d'altronde l'Egitto. Facciamo un passo in più, ecco, quello che dico io, facciamo un passo in più, cioè abbiamo la capacità sì di esportare, riusciamo a intravedere la possibilità di fare degli investimenti e soprattutto in questo clima di collaborazione troviamo la capacità di attrarre quegli investimenti sul nostro territorio, cercando anche di fare joint venture, cercando anche di fare collaborazioni con le nostre imprese italiane. Ecco, cercando anche di smuovere un po' l'Europa su questo fronte. È significativo che uno dei primi capitoli di questo libro sia stato scritto da Fabrizio Spada, direttore della rappresentanza della Commissione Europea, e l'Europa, si dice, ha una politica estera ondivaga e forse magari un po' imprecisa. Adesso c'è un alto commissario italiano per la politica estera. Possiamo sperare che l'Europa, non dico spinga, ma possa affiancare gli sforzi italiani per aprirsi costruttivamente sull'area del business con i paesi mediterranei, con i paesi del Golfo? Ma ricordi, Gianfranco, quante volte ognuno di noi nel suo mestiere ha scritto di un'area di libero scambio nell'area del Mediterraneo. Sembrava che fosse da lì a poco che la sua piena realizzazione. Non è stato così. Ci sono stati alcuni programmi interessanti di collaborazione e di sviluppo, ma poi anche l'Europa, a questo punto di vista, presa in corsa da eventi e da avvenimenti come il problema dell'immigrazione e altri eventi simili, anche dal fallimento delle primavere arabe, certo. Anche quello è stato, nessuno di noi aveva previsto che ci fosse un fallimento, diciamo, su tutta la linea, e ha rallentato questa nostra presenza, questa nostra collaborazione. Però penso sempre che noi come Italia abbiamo delle potenzialità, perché siamo un ponte, una cerniera. Penso ad esempio a quello che potrebbe fare la Sicilia. Certo. Penso ad esempio a quello che potrebbe fare un porto come Gioia Tauro. Ecco, insomma, pensiamoci, però ecco. diamoci anche una scossa. Diamoci da fare, anche perché se no rischiamo di parlare di occasioni perdute, cosa che certo. Non si dovrebbe fare. Grazie certo. Maurizio Guandarini di essere stato con noi. Ricordo il libro di cui abbiamo parlato, Gulf and Med, Expo 2015-2020, il mercato, gli investimenti e la finanza islamica, Abitalia, business per la crescita, in pratica un manuale, istruzioni per l'uso per capire meglio la realtà della finanza islamica, la realtà del Medio Oriente, dei paesi del Golfo, dei paesi produttori di petrolio, istruzioni per l'uso per cercare veramente di trovare delle soluzioni nuove che possono spingere la crescita reciproca di cui tutti abbiamo bisogno. L'editore è Mondadori Università, le pagine sono 300, il prezzo è 24 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagine per sabato prossimo.